America 24 di Mario Platero. Buongiorno a tutti da New York, Mario Platero, benvenuti ad America 24. Partiamo dai mercati. Dopo la chiusura di lunedì, Wall Street doveva aprire questa mattina in surplus. Pochi dati economici oggi, alcuni domani, molti profitti soprattutto nel settore bancario americano. Poi la bomba, già ieri notte, il rilancio a 19 miliardi di dollari di Kraft per Cadbury. E al di là delle implicazioni per il futuro della cioccolata, della Ferrero che era interessata a qualche pezzetto di Cadbury e dei banchieri che incasseranno lautissime commissioni, ci sarà l'impatto psicologico di una operazione d'altri tempi. 19 miliardi di dollari è un livello che non si vedeva da anni. E dunque il rilancio che cosa significa per Wall Street? Significa ottimismo, fiducia nel futuro, ritorno al consolidamento, tutti sviluppi che Wall Street adora e di cui sentiva la mancanza. L'altra notizia molla riguarda la Apple Computer. Sentiamo questa analista. Of course everyone's been talking about this iSlate, which is a tablet-like device called a Kindle killer, called an iPod killer, iPod on steroids. Come avete sentito, la voce dell'analista è piuttosto agitata. Perché? Perché l'Apple Computer ha inviato un invito per il 27 gennaio al Yerba Buena Center for the Arts Theater a San Francisco, che dice: vieni a vedere la nostra ultima creazione. Cosa sarà questa creazione? In teoria ufficialmente nessuno lo dice, nessuno ufficialmente lo sa, eppure scommetto che sarà il tablet, questo nuovo computer multimediale, leggero, di piccole dimensioni, straannunciato e straatteso. Cerco di darvi qualche primizia. Si dice che avrà uno schermo da 10-11 pollici, arriverà già a marzo, costerà $1,000, sarà super wireless e potrebbe anche essere abbinato a un abbonamento a un servizio internet senza fili. Un super gadget per fare che cosa? Per fare meglio quello che già si faceva prima: vedere film, ascoltare musica, leggere libri e giornali online e navigare su internet. Di cosa stiamo parlando dunque? Secondo me di una specie di Kindle di Amazon. E tanto è vero che la Apple, ed è questa la vera notizia, ha fatto, sembra, un accordo con Harper & Collins, grande casa editrice americana controllata da Murdoch e quindi da News Corp, e l'idea è che i due giganti si mettano insieme per sbaragliare Amazon nel suo stesso mercato. Passiamo alla politica e ai guai di Barack Obama. Dopo le grane in Massachusetts, dove potrebbe perdere un seggio chiave, Obama soffre di un contrattacco deciso, feroce, da parte delle banche sulla sua proposta di imporre una nuova tassa sulle passività. La resistenza punta in alto, una denuncia addirittura alla Corte Suprema e un'accusa di incostituzionalità. La decisione, dicono le banche, sarebbe arbitraria perché colpisce solo le grandi istituzioni ed è discriminatoria. Un avvocato del calibro di Carter Phillips convincerà i grandi saggi della nazione, sostengono i grandi istituti di credito. Ah sì, discriminatoria. Come ha detto Barack Obama nel suo discorso del sabato, queste banche americane a volte sono senza vergogna. Non hanno mica parlato di incostituzionalità quando erano loro ad essere salvate dalla crisi e non le piccole banche. Pensate che solo l'anno scorso di piccole banche senza rete ne sono fallite 140 e i correntisti delle spianate del Midwest hanno perso milioni di dollari in fondi non assicurati dalla FDIC. A New York intanto i banchieri stanno contando i loro bonus, 145 miliardi di dollari quest'anno. La tassa di Obama vale poco più della metà, ma in 10 anni. Non mi ricordo neppure che le banche abbiano parlato di incostituzionalità quando Morgan Stanley e Goldman Sachs sono entrate sotto l'ala protettiva della Federal Reserve o quando il Tesoro ha pagato 80 miliardi di dollari alla compagnia di assicurazione AIG perché potesse a sua volta pagare senza sconto le polizze contro il rischio default obbligazioni. È populismo quello di Obama, come dice qualche economista? Forse è populismo, ma certamente non è populismo a buon mercato. Tanto più che il presidente in questo momento ha ben altri problemi. Rischia di perdere, come dicevo poco prima, la maggioranza blindata di 60 seggi in Massachusetts. Sentiamolo. I need leaders like Martha by my side, so we can kick it into high gear, so we can finish what we've started. Qui sta appoggiando Martha Coakley, ex candidato sicuro per il seggio che fu di Ted Kennedy. La tragedia è shakespeariana. Il vecchio leone della dinastia più famosa d'America era l'ispiratore della riforma stessa. Poi è morto prima di poterla veder nascere. Ricordate la sua voce? But it brings me back, my friends, to another thought, and that is the whole issue of health insurance. Se il suo saggio andasse in mano repubblicana, oltre all'affronto ci sarà il rischio affossamento della riforma sanitaria, con interessi, come potete immaginare, per decine di miliardi di dollari in gioco. Dunque, oggi non si pensa più alle elezioni, perché sono ormai nelle mani degli elettori e avremo i risultati domani e non c'è più nulla da fare. Si pensa invece al piano B per salvare la riforma. Come? Questa è l'idea della Casa Bianca, portare al voto della Camera la proposta già approvata dal Senato senza nessun cambiamento, subito approvarla e portarla alla firma del presidente Obama al più presto. Le due proposte sono praticamente identiche, con qualche eccezione. La public option, ad esempio, l'opzione per un'assicurazione pubblica, la Camera la vuole, il Senato la respinge. A parole, in queste ore, la battaglia resta ideologica, ci sono resistenze, ma se per caso davvero Brown dovesse vincere il seggio repubblicano, non credo che ci sia una medicina migliore della sconfitta per incoraggiare l'unità di partito. Blu, tutto è blu, dice la canzone degli Eiffel 65. E siamo alla cronaca. Sapete qual è il giorno più blu, nel senso americano del termine, dunque più scoraggiante, deprimente dell'anno? Era ieri, lunedì 18 gennaio. Ma perché ieri? Lo spiega Cliff Arnold, psicologo di chiara fama. Nel 2005 ha preparato un'equazione con varie determinanti: W per le condizioni del tempo, D per il rimborso debiti, T per il periodo di tempo trascorso dal Natale, Q per la prossima busta paga, M per la parte emotiva, R per la preparazione delle tasse, N per la voglia di accettare o meno la situazione. Ecco, raggruppando il tutto nella sua equazione si ottiene che il Blue Monday, per definizione, cade ogni anno il terzo lunedì di gennaio. L'anno scorso è stato il 19, quest'anno il 18, nel 2011 sarà il 17. Il corollario, secondo gli studi, il tasso di astensione dal lavoro nel lunedì triste cresce in modo esponenziale. Queste voci che sentite sono più allegre, risalgono anche loro al lunedì. A New York si trova di tutto e sono stato invitato a un party di Natale ucraino. La storia è semplice: quando si trattò di scegliere alcuni secoli fa, gli ucraini e gli ortodossi hanno respinto il calendario gregoriano e sono rimasti fermi al calendario giuliano. Così Mel e Inka Brown, lei di origine ucraina, hanno aperto le porte della loro casa agli amici e ad America 24 e per il Natale hanno scelto il 18, giorno ufficiale dell'Epifania ortodossa, ma a loro faceva più comodo fare direttamente il Natale. La liturgia prevede questa tradizione: si prende un cucchiaino di un miscuglio di miele e di orzo e si getta il contenuto sul soffitto. Se resta appiccicato, l'anno sarà buono; se ricade sulla testa dei commensali, no. Non c'è l'equazione di Arnal per determinare lunedì blu, ma c'è la saggezza dei secoli. Il miscuglio è rimasto appiccicato e dunque dal blu siamo passati al rosa. A cena, borscht, cavoli ripieni, ravioloni e variazione locale con pesce spada ai ferri. Here, here. Here, here. Merry Christmas! Ci sono mille altre notizie, pettegolezze, idee da questa costa atlantica che vive tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su America 24, il nuovo sito che vi porterà sulla sponda americana. E con alcune di queste notizie, il Sex Rehab di Tiger Woods è quasi finito e è annunciato che tornerà sui campi da golf già in primavera. Johnson & Johnson nella bufera: il Dipartimento per la Giustizia accusa la società di aver pagato tangenti per 280 milioni di dollari a Omnicare, società che gestisce case di riposo in cambio di acquisti prodigiosi dei loro medicinali. A Haiti si scava ancora tra le macerie, ma le navi da crociera continuano a sbarcare turisti a pochi chilometri dalle zone devastate dal terremoto. Infine, Hugh Hefner, 83 anni, fondatore di Playboy, ha perso due delle sue tre conigliette con cui viveva, due gemelle di 20 anni, e cerca sostitute. Su Twitter dice: ho ricevuto migliaia di proposte. Ed eccoci al finale, alla nostra canzone del giorno. Robert Zemeckis, regista di Forrest Gump e Ritorno al futuro, ha fatto un remake in animazione tridimensionale di Yellow Submarine. I quattro Fab saranno Cary Elwes, George Harrison, Dean Lennox Kelly, John Lennon, Peter Serafovich, Paul McCartney e Adam Campbell, Ringo Starr. Il film è firmato Disney e dunque la canzone con cui ci lasciamo non può che essere: In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed unto the the sun till we found a sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine. Submarine, ovviamente. Beatles, 1966. Da New York è tutto. Il vostro amico Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!